2024 2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Siamo di nuovo in onda in questa puntata del 23 luglio. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile attraverso il sistema podcast, quindi troverete il file MP3 della nostra trasmissione. Basta andare su www.radio24.it nella sezione podcast per trovare l'indirizzo giusto da inserire nei vari programmi che vi permettono di gestire e quindi di scaricare settimana dopo settimana il podcast di Radio 24, o meglio, quello di 2024 nel particolare. Poi potete scegliere anche altri programmi. In questa puntata vi proponiamo due interviste, una l'abbiamo realizzata con David Orban, parleremo tra poco di video e di come i video vengono trovati o non trovati, potremmo meglio dire così, dai motori di ricerca. Ma iniziamo parlando di pagamenti elettronici, di sicurezza e anche di software italiano. Questo è un tema molto, molto bello, molto interessante. Saluto Valentino Bravi, che è amministratore delegato di TAS Group. Benvenuto 2024. Buongiorno, grazie a voi. Voi siete un'azienda che fa software, un'azienda italiana, software e soluzioni legate in modo particolare al mondo dei pagamenti elettronici. Sì. Noi siamo un'azienda che sviluppa software, quindi siamo una software house specializzata in tre settori, tutto quello che è monetica, quindi pagamento con carte, carte di debito prepagate, carte fidelity privative, sistemi di pagamento per il sistema bancario e finanza. Quindi diciamo il vostro software aiuta a far passare soldi all'interno del network complesso che ormai abbiamo creato nel mondo occidentale. Diciamo che il nostro software in Italia, in Europa e adesso anche in Sud America fa passare tanti soldi tutte le ore, tutti i minuti, tutti i giorni, perché le principali banche italiane e europee sono nostri clienti su questo servizio. Senta, a proposito di soldi, moneta e in particolar modo di moneta elettronica, questo è un tema di cui oggi si parla molto perché sta succedendo qualche discontinuità, stiamo vedendo nel mondo dei pagamenti elettronici via terminali mobili, quindi il cosiddetto mobile payment. In generale, dal vostro punto di vista, stiamo accelerando questa transizione verso la moneta elettronica che ha innumerevoli vantaggi o le cose accadono molto lentamente? Diciamo che nel mondo questa accelerazione si percepisce soprattutto nei paesi emergenti in maniera evidente. In Italia, che comunque abbiamo dei punti di eccellenza in questo settore, si sta progredendo, probabilmente con una velocità inferiore rispetto ad altri paesi. Le opportunità che nascono qui sono tantissime, tutta la dematerializzazione del cash evidentemente interessa ai governi centrali, ma non solo. Non è un problema tecnologico, è un problema veramente di investimenti sulle infrastrutture e soprattutto di volontà di sviluppare soluzioni di questo tipo. Ci sono molti scettici perché non comprendono quali sono i vantaggi. Lei diceva, molti vantaggi stanno dalla parte degli stati, perché gli stati spendono banalmente un sacco di soldi per produrre la moneta, ma immagino che un grosso tema sia anche quello della sicurezza, cioè il sistema di pagamenti elettronici è più sicuro rispetto a quello tradizionale, mi sbaglio? Assolutamente sì. Questo soprattutto nel momento in cui il sistema di pagamento elettronico viene controllato con dei sistemi specifici. Noi per esempio abbiamo soluzioni legate all'antifrode per il pagamento con le carte che ti permette di individuare appunto e segnalare quasi online eventuali anomalie. Ultimamente abbiamo anche sviluppato soluzioni applicando nuove tecnologie legate al mondo delle reti neurali, ottenendo dei risultati veramente eclatanti da questo punto di vista. Quindi la sicurezza del pagamento elettronico è elevatissima. Molto più rischioso trovarsi in tasca della moneta falsa rispetto che avere un problema su un pagamento elettronico. Prima accennavo al mobile payment. È una moda? Cioè, se ne parla molto perché è anche bello, affascinante, tutto quello che ha a che fare con il mondo degli smartphone è sempre affascinante, o in realtà voi state vedendo, perché voi fate anche soluzioni, comunque insomma i vostri terminali arrivano fino al mobile payment, ecco, in realtà sta cambiando qualche cosa? Ancora una volta non è un problema di tecnologia, anche in questo caso. Noi abbiamo sviluppato soluzioni di mobile banking, abbiamo soluzioni di mobile payment. Il problema vero è che per il mobile payment servono investimenti sulle infrastrutture, perché se io ho lo smartphone che è in grado di ovviamente portare a termine un pagamento, ma non ho l'infrastruttura che lo riceve, evidentemente questo non ti permette. Un po' come è successo quando si è partita la rete, per esempio, dei bancomat, che si è stato fatto questo grosso investimento delle reti dei POS su tutti i punti vendita, eccetera. Qui dobbiamo pensare di fare esattamente la stessa cosa. Il mobile payment risolve anche qui tantissimi problemi, perché ti dà una tracciabilità di tutto quello che tu fai, ti dà la possibilità di svincolarti dal rischio di portare del cash con te, ma soprattutto anche per l'esercente è una sicurezza estremamente importante. Non avere cash all'interno di un punto di vendita evidentemente riduce parecchi rischi. Quando lei dice dobbiamo sviluppare l'infrastruttura, significa che dobbiamo cambiare il sistema dei POS sostanzialmente? Significa che dobbiamo mettere adesso banalmente, diciamo, delle antenne che ricevano ovviamente questa comunicazione collegata a un sistema che li certifichi, le autorizzi e che registri l'avvenuto pagamento. Quindi diciamo sono dei POS un po' differenti, evoluti. Un po' più evoluti, però il concetto è esattamente quello del POS. Sì, perché ricordiamo che possiamo, diciamo, individuare due strade quando parliamo di mobile payment. Il pagamento, ma che è un po', diciamo, certo non molto innovativo e forse ancora un po' complicato, cioè io con lo smartphone pago così come fossi davanti a un computer, cioè faccio un pagamento elettronico tradizionale. Invece quello a cui noi facciamo riferimento, e forse sarà anche l'evoluzione più interessante, quello dello smartphone utilizzato come fosse una carta di credito, di debito, eccetera eccetera. Esattamente, una carta virtuale, nel senso che non c'è fisicamente la plastica, ma c'è semplicemente il chip che ci permette di comunicare, di essere identificati, di comunicare l'importo che si vuole pagare e quindi chiudere con completa sicurezza la transazione. Questo esattamente. E anche in questo caso la tecnologia è ampiamente disponibile? Assolutamente sì, ci sono nel mondo parecchi già esempi, magari anche un po' di nicchia, macchie di leopardo, però esistono tantissime soluzioni. Non è ancora una volta un problema di tecnologia, ma è disponibile ormai anche da diversi anni. Ovviamente poi, come sempre, la tecnologia evolve e quindi migliorerà, però questo è normale. Insomma, il PC che vado a comprare oggi so già per certo che fra 3 mesi sarà in qualche modo anche parziale, ma sarà obsoleto. Sì, abbiamo detto all'inizio che voi siete una azienda italiana e spesso nel mondo del software si citano devo dire che anche io parlo spesso con interlocutori che sono o addirittura americani o emanazione di aziende americane. Il software italiano, che tipo di ruolo ha nel mondo? Una volta ho incontrato una persona mi diceva: io ho fondato un'azienda negli Stati Uniti, ma sviluppo software in Italia. E mi sembrava anche, devo dire, strano. È effettivamente strano oppure no? Qui tocca un argomento che mi sta particolarmente a cuore. Io sto portando avanti, non da solo, però una piccola battaglia sul Made in Italy nel software. Perché Made in Italy non è soltanto lusso, non è soltanto alimentare, ma io ritengo che sia anche la possibilità di fare innovazione funzionale sviluppando applicazioni software. Indubbiamente la battaglia della innovazione infrastrutturale, quindi delle piattaforme, questa l'abbiamo persa ormai da alcune decine di anni e non è pensabile in un mercato tipo il nostro riprendere questo discorso. Ma nel mondo del software applicativo, nel software specialistico, io penso che il software italiano non abbia da invidiare niente a nessuno. Qui dobbiamo soltanto evitare di commettere l'errore che abbiamo fatto forse in altri settori, parlare tanto di offshore, portare a terzializzare la produzione al di fuori del nostro territorio, privilegiare solo perché magari hanno un brand non italiano a determinate soluzioni senza entrare nel dettaglio, crea di fatto povertà nel nostro territorio. Crea di fatto povertà al quarto settore in termini di numero di addetti sul mercato italiano. Queste cose purtroppo avvengono, magari con superficialità, e questo secondo me è un errore che il sistema paese deve rendersene conto velocemente e reagire adeguatamente. Io le dico solo una cosa, io vengo dal mondo delle multinazionali americane e tedesche, ho gestito multinazionali sia in Italia che in Europa, americane e tedesche. Il management italiano, le competenze italiane sono assolutamente di alto livello e parecchie di queste multinazionali hanno management italiano. La capacità di sviluppare in Italia, abbiamo università nel mondo dell'IT assolutamente di livello e soprattutto nel sud abbiamo la possibilità di fare nearshoring vero ad alta qualità, fare veramente, diciamo, competere veramente sul campo con i paesi più titolati tipo India, tipo Argentina, noi siamo in grado di farlo con qualità più elevata. Le faccio un'ultima domanda, mi piace molto quello che lei dice, vorrei capire se, visto che il software lo sviluppano persone e poco le macchine, certo le macchine ci aiutano, ma le trovate facilmente queste persone? Allora, troviamo tante persone, come sempre, come in tutti i settori, trovare le persone, diciamo, che fanno la differenza è più difficile, questo è normale. Però in una squadra di calcio bisogna avere i campioni e avere anche i giocatori che compongono la squadra. E in Italia, devo dire, si trovano sia i campioni, tanti, che buoni giocatori. Io dico che, ripeto, il mondo universitario da questo punto di vista ha fatto passi in avanti, sia al nord che al sud, e competenze, persone con una discreta formazione, sicuramente niente da invidiare rispetto agli altri paesi, ce le abbiamo, usiamole, non andiamo a spendere i soldi solo all'estero. Io ringrazio per essere stato con noi Valentino Bravi, che è amministratore delegato di TAS Group, e la ringrazio anche per queste ultime parole perché penso che siano molto importanti. Buon lavoro, a presto. Grazie e arrivederci. E per noi adesso c'è una breve pausa, vi ricordo che anche questa puntata di 2024 sarà disponibile attraverso il sistema podcast di Radio 24. Tutte le informazioni sono online su www.radio24.it, naturalmente nella sezione dedicata al podcast. Il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it e se volete c'è anche una pagina Facebook che vi aspetta, dove alcuni ascoltatori di Radio 24 si divertono anche a scambiarsi opinioni sui temi trattati in trasmissione. Cercateci, basta scrivere nella finestra di ricerca 2024. Seconda parte di 2024, questa è la nostra versione estiva, una mezz'ora il sabato nel pomeriggio tra le 15.30 e le 16. E naturalmente, come dicevo poco fa, ci trovate anche su internet. Tutte le informazioni sono online su www.radio24.it. Adesso parliamo di video e soprattutto di un problema. Nella rete internet sta esplodendo, questo lo diciamo già da un po' di tempo, il traffico generato dai video che vengono scambiati o scaricati o visualizzati. Tanto traffico, tanti video. Secondo voi questi video sono facilmente rintracciabili dai motori di ricerca? Questo è un problema che si sta affrontando già da un po' di tempo, lo stanno affrontando i motori di ricerca, che dal loro lato devono risolvere una serie di problemi, ma l'industria, il mercato sta cercando degli, chiamiamoli, escamotage, delle soluzioni. Ne abbiamo parlato, abbiamo incontrato qualche settimana fa David Orban, che è amministratore delegato di un'azienda che si chiama DotSub, che si occupa proprio di video. Partiamo dal problema che si cerca di risolvere. In internet ci sono strumenti diversissimi per diffondere contenuti, siano questi cultura, educazione o messaggi commerciali di brand. E sicuramente i video sono quelli che hanno la banda larga emotiva più importante, dove vedi una persona che effettivamente con passione racconta la propria storia. Qual è il problema? Che con la diffusione esplosiva di questo mezzo, Cisco per esempio ha una proiezione secondo cui entro il 2015 oltre il 70% della banda di trasmissione di internet sarà occupata dai video, i motori di ricerca non sono in grado di indicizzare e quindi far ritrovare correttamente i video. E questo è un problema perché i cosiddetti metadati, cioè quelli che descrivono l'oggetto che vuoi ritrovare, nel caso dei video tradizionalmente sono molto poveri. consistono del titolo e di una breve descrizione. Se tu vuoi divertirti per 2 minuti, 5 minuti al giorno, sicuramente i segnali virali del tuo cerchio sociale online sono sufficienti. Se invece sei alla ricerca di qualcosa di specifico, allora le soluzioni tradizionali non lo sono. Quindi, pensando che ancora oggi i motori di ricerca sviluppano molto del traffico e comunque dipendiamo molto dai motori di ricerca, in particolar modo da Google, potremmo quasi dire che per farci trovare ci conviene attualmente scrivere piuttosto che far video, anche se quasi tutti vogliono fare video. Questo è talmente vero che ci sono i cosiddetti content farm che pagano persone per scrivere articoli testuali che contornano un video, che poi è il contenuto che vogliono promuovere, e sviliscono simultaneamente sia il video che il testo, e in modo abbastanza controproducente. Ci sono stati anche recentemente articoli che ne parlavano, e questo approccio, secondo DotSub, non è quello corretto. Ecco, prima di parlare di quello che voi fate, mi incuriosisce questa cosa, allora ti chiedo: tutto ciò accade nonostante YouTube, che è la principale piattaforma video online, sia di Google? Google ha un approccio che tuttora si basa esclusivamente ed in modo fanatico, fondamentalista, sull'algoritmo. E quindi quello che gli algoritmi computerizzati possono fare va bene, fin tanto che lo possono fare. Nel momento in cui non riescono a raggiungere l'obiettivo, che in questo caso è quello di far trovare video di qualità con una descrizione sufficientemente profonda dei propri contenuti, al momento Google comunque non va oltre. Ecco, allora voi che cosa fate? Che cosa proponete al mercato? DotSub offre una piattaforma collaborativa online, quindi senza niente che debba essere scaricato, installato sul computer, completamente basato sul web. Come si direbbe oggi, in the cloud. Volendo si potrebbe anche dire così. Che permette a coloro che hanno dei video di utilizzare professionisti oppure un gruppo di appassionati per aggiungere dati che sono molto concretamente attribuiti al video stesso. Quali sono questi dati? Molto semplicemente la trascrizione di quello che viene detto nel video e la traduzione in diverse lingue di questa trascrizione, quindi sottotitoli nella lingua originale e tradotti. Ci sono delle tecnologie che vengono definite di speech recognition, cioè che riconoscono la voce e soprattutto quello che si dice, e quindi fanno quello che tu ci hai detto in modo automatico. Questo significa che voi possedete queste tecnologie molto sofisticate, quindi traducete tutto automaticamente, o purtroppo ancora oggi le macchine arrivano fino ad un certo punto? Per fortuna le macchine arrivano fino ad un certo punto, e quindi c'è tuttora bisogno di una collaborazione tra macchine ed umani per raggiungere risultati di qualità scalabili. In effetti anche DotSub utilizza un'evoluzione ibrida di questi approcci. Le tecnologie di dettatura, che quindi si basano su una persona specifica che produce un testo pronunciando le cose in modo apposito perché queste vengano trascritte, funziona molto bene. La trascrizione automatica di un parlato che non sia stato prodotto per la dettatura oggi non funziona sufficientemente bene, e se tu fai accoppiare gli errori che questo sistema produce con gli errori inevitabili della traduzione automatica, il risultato finale è assolutamente inaccettabile, soprattutto se applicato alla manciata di parole che compongono una riga di sottotitolo. E quindi DotSub che cosa fa? Utilizza queste tecnologie automatiche accompagnandole, accoppiandole con una forte revisione qualitativa da parte di umani, che quindi permettono di dare dei servizi a costi estremamente competitivi, addirittura sufficienti perché intere nuove classi di problemi e di archivi video possano venire gestiti e trattati con questa maniera, ma di elevatissima qualità. Senti, vi rivolgete a grosse organizzazioni, quindi broadcaster oppure produttori di video in generale, o ad un pubblico più vasto, quindi a, non dico l'uomo della strada che fa il video in spiaggia, ma anche piccoli professionisti? Oggi in effetti sul sito di DotSub chiunque può caricare un video ed effettuare in proprio la trascrizione, oppure chiamare amici e conoscenti per chi lo facciano. All'altro estremo abbiamo clienti come TED, la famosa serie di conferenze che utilizza la piattaforma di DotSub con 6.000 volontari che hanno tradotto 20.000 video in oltre 90 lingue, o Adobe o Bank of America o altri colossi. In un prossimo futuro rilasceremo una nuova piattaforma che in effetti permetterà in un marketplace di far incontrare le esigenze dei piccoli possessori di video online, le agenzie, i webmaster, i produttori di video piccoli, con le offerte di servizi di trascrizione e di traduzione automatica migliorati dall'intervento umano. E quindi quello che le grandi aziende utilizzando DotSub possono fare già oggi sarà alla portata di tutti. Senti, il testo, la traduzione che voi fate del, diciamo, prima di tutto la trascrizione, prima della traduzione che voi fate del video, dove si trova e poi è disponibile per tutti o solo per i motori di ricerca? Il video, quando viene caricato su DotSub oggi, viene associato ad una licenza che sceglie il proprietario del video, quindi completo copyright o le varianti di Creative Commons che ne permettono un utilizzo molto più ampio e libero. Altrettanto avviene con la trascrizione, che è di proprietà di colui che lo realizza o lo fa realizzare su commessa, ma può essere scaricato e poi utilizzato anche liberamente. Per quanto riguarda la sua indicizzazione, è un requisito dei motori di ricerca stessi che nel momento in cui lo vede il computer, lo deve vedere anche il navigatore. E questo viene posto però in modo positivo. In base a questi criteri si realizza quello che è la cosiddetta trascrizione interattiva, la Interactive Transcript, dove tu puoi cogliere con lo sguardo l'argomento del video nella sua interezza come faresti con un articolo di giornale, focalizzarti effettivamente sul momento in cui parlano di qualcosa che ti interessa e con un singolo click posizionarti nel secondo del video dove chi espone parla di questo argomento, e quindi invece di passare 20 minuti alla ricerca di quello che ti interessa, immediatamente investire quei 2-3 minuti che hai a disposizione sul punto focale dell'argomento. Naturalmente i motori di ricerca non indicizzano nemmeno i podcast di 2024, quindi quello che tu ci hai detto varrebbe anche per l'audio. Assolutamente. Anche perché stiamo parlando di fatto dell'audio del video. È proprio così, in effetti molte volte ci viene chiesto di lavorare, così come lavoriamo i video, l'audio stesso, e quindi il tuo esempio è perfetto. Ed è tutto per questa puntata di 2024, come sempre vi ringraziamo per l'ascolto, ci trovate anche su internet, ci sarà la possibilità tra poco di scaricare il file MP3 della nostra trasmissione, andate su www.radio24.it. Per comunicare con noi la posta elettronica è 2024@radio24.it oppure la nostra pagina Facebook. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana, sempre il sabato nel pomeriggio di Radio 24 alle 15:30. 2024. 31 seconds and we're going for auto sequence start.